Europa 24. Buongiorno, un saluto da Gigi Donelli. Gli eventi in Ucraina, dice il Presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, ci danno una lezione che non dobbiamo dimenticare. La pace e la stabilità in Europa non si possono dare per scontato. Così il Presidente, appunto, concludendo il suo intervento nel dibattito sul centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Ora che i nostri antichi demoni si stanno risvegliando, ha aggiunto, non dobbiamo dimenticare che chi difende xenofobia e ultranazionalismo attacca anche lui e i suoi valori. In Italia, o meglio dall'Italia a Bruxelles, è partita la lettera del Ministero e del Ministro dell'Economia diretta alla Commissione Europea per avvertire i vertici comunitari, come prassi, che l'Italia ha rinviato di un anno nel documento di economia e finanza appena varato dal governo il pareggio strutturale di bilancio dal 2015 al 2016. La plenaria del Parlamento europeo ha definitivamente approvato a larghissima maggioranza il meccanismo di risoluzione bancaria che completa l'Unione. 570 sì, 88 no, 13 astenuti. La presidenza greca ha annunciato che il fondo, costituito con l'accordo intergovernativo, sarà operativo dal gennaio del 2016. Sergio Nava ha intervistato a Strasburgo il commissario europeo al mercato interno, Michel Barnier, uno degli artefici dell'intesa. Qu'est-ce qu'on a vu dans toute cette crise qui a provoqué tant de difficoltà sociali, economiche, umane. Cosa abbiamo visto in questa crisi che ha provocato tante difficoltà sociali, economiche, umane? Abbiamo visto che il fallimento di una banca o di uno Stato, o il rischio di fallimento, diviene subito il problema di tutti, in modo sistemico. Abbiamo dato una risposta a questo, garantendo una supervisione coerente e comune per tutte le banche dell'Eurozona, con un buon coordinamento economico. Grazie all'Unione bancaria, le banche della zona euro saranno supervisionate in modo comune e coerente, e quando ci sarà una difficoltà, si potrà affrontarla con meccanismi comuni, in modo rapido, e le banche pagheranno per le banche. La stabilità dell'Eurozona sarà quindi più solida e ciò significherà maggiore stabilità per tutta la zona euro. Ci saranno meno crisi perché abbiamo messo in piedi strumenti di prevenzione che non avevamo 4 anni fa. Ce que je sais c'est qu'il y aura moins de crise parce que nous avons maintenant des outils de prévention et de traitement des crises que nous n'avions pas il y a 4 ans. Finalmente l'Europa batte un colpo e si pone con decisione al fianco delle PMI e del tessuto manifatturiero, sostenendone la competitività e tutelando i consumatori dal rischio contraffazione. Così Raffaello Vignali, del Nuovo Centrodestra, membro delle Commissioni Attività Produttive, Commercio e Turismo dell'Unione Europea della Camera, in riferimento all'approvazione a larga maggioranza da parte del Parlamento Europeo della direttiva Tajani-Borg sulla tutela dei consumatori da prodotti appunto falsi e nocivi. Un parere ampiamente condiviso anche dall'europarlamentare Oreste Rossi, intervistato a Strasburgo da Sergio Nava. È un passaggio molto importante, voluto fortemente dai deputati italiani, in accordo anche con quelli di altri paesi, ma ostacolati da sempre dai deputati europei, in parte della Germania, ma più che altro dei paesi del nord. Perché? Perché noi abbiamo dei prodotti tipici italiani caratteristici, abbiamo delle produzioni importanti che vanno dal tessile alle rubinetterie, ma chi più ne ha più ne metta, perché l'impresa italiana è veramente un'impresa che parte dall'artigianato e arriva anche a una grande industria di grande qualità che ha bisogno di un marchio di qualità, e il marchio di qualità non può che essere il Made in, che significa Made in Europe per i prodotti fatti in Europa, ma il Made in Italy per quelli fatti in Italia e così via. Il bello è l'obbligatorietà di metterlo, quindi si fa una lotta decisa alla contraffazione, ai prodotti che arrivano dall'estero, lavorati all'estero e magari solo rifiniti in Italia, che poi potevano scrivere fatto in Italia. In realtà questo non potrà più succedere, e questo è un grande passo avanti per la nostra produzione di qualità, per i nostri imprenditori, che in un momento di crisi può ridare ossigeno alle nostre imprese. E ora parliamo di farmaci. L'Italia, insieme a Danimarca, Olanda e Slovenia, è finita nel mirino della Commissione UE per la direttiva sulla farmacovigilanza. Questa specifica i requisiti per il monitoraggio della sicurezza delle medicine sul mercato, l'identificazione e la valutazione delle reazioni allergiche. Bruxelles rimprovera l'Italia e all'Italia e agli altri paesi che avevano preso tempo sino all'ottobre 2013 per adeguarsi di non aver ancora trasposto le norme UE nella legislazione nazionale. Insomma, lentezze nel trasferimento delle norme europee. Infine, una accordo che è stato ampiamente comunicato, soprattutto appunto attraverso tra la Lega e il Fronte Nazionale, l'accordo cosiddetto dell'Alleanza per l'Identità, che sarà una delle cifre di queste elezioni europee in vista, dunque verso il 25-26 di maggio. Il leader leghista Matteo Salvini ha spiegato ai nostri microfoni che più che elezioni sarà un vero e proprio referendum. Noi potevamo vincere il referendum, l'abbiamo detto prima, non saranno elezioni ma saranno un referendum fra il passato e il futuro. E finalmente c'è speranza, è la prima volta che votiamo per l'Europa in Italia parlando di Europa e guardando avanti. E quindi sarà un referendum pro o contro l'euro, che è una moneta sbagliata, pro o contro l'immigrazione di massa, pro o contro la famiglia, pro o contro la sovranità monetaria e territoriale, e io voglio vincere il referendum. È tutto, Europa 24 torna domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.